Europa 24. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Gianmarco Ferronato che nel frattempo è entrato alla gestione della regia e naturalmente l'Europa. Abbiamo accennato già nell'ora precedente che questo è un tempo in cui si ricorda anche l'anno del conflitto in Europa orientale. Noi abbiamo sentito su questo tema l'ambasciatore dell'Ucraina all'Unione Europea, Konstantin Yeliseyev, che possiamo cominciare a sentire in sottofondo, ed è proprio dalla parte ucraina che in questi giorni emerge una richiesta molto esplicita che l'Unione Europea faccia uno sforzo ulteriore per cercare di assumere il controllo e di partecipare in maniera appunto diretta a quello che è il difficilissimo controllo della tregua firmata a febbraio. Yeliseyev dice: Russia e Filorussia violano regolarmente il cessate il fuoco e provocano scontri, ostacolano l'attività della missione di vigilanza speciale dell'OSCE nelle zone da loro controllate, che sono esattamente dunque quelle forze, le forze dell'OSCE, ma di fatto sono dei funzionari civili che in questa fase hanno il compito di controllare il rispetto del cessate il fuoco. Yeliseyev aggiunge: vorrei ricordare anche che l'Ucraina ha tutto il diritto di aspettarsi un sostegno specifico, politico e di sicurezza pratico dall'Unione Europea, anche in virtù della firma già dello scorso anno dell'accordo appunto sul processo di adesione, che peraltro fu una delle cause dell'esplosione del conflitto sul fronte orientale. Questo dunque il passaggio principale della conversazione che abbiamo avuto con Yeliseyev. Torneremo poi con lui appunto nel tradurre e nel rendervi disponibile l'intervista integrale all'inizio della prossima settimana. Altre notizie invece riguardano la Grecia. Dunque, come sempre di fatto in questi mesi, la complessità, la ricerca di una soluzione sul fronte greco. Oggi il premier di Atene è in Russia nell'incontro del Cremlino. Vladimir Putin e il premier greco discutono delle relazioni tra Mosca e l'UE alla luce della politica delle sanzioni perseguita da Bruxelles, così dice Dimitri Peskov annunciando appunto la visita del primo ministro greco. Non c'è stata, perché c'era la curiosità da parte dei giornalisti, non c'è stata, dice Peskov, nessuna richiesta economico-finanziaria da parte della Grecia. Se dovesse arrivare saremmo comunque pronti a prenderla in considerazione. Ecco, questi un po' i due brevi accenni di questa puntata di Europa 24. Con questo è di nuovo l'occasione per augurarvi una buona Pasqua a tutti voi. Europa 24 torna naturalmente la prossima settimana. Un saluto. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.